Musica Maestro di Armando Turno. Un cordiale saluto ad Armando Turno e un augurio di buona Pasqua a tutti gli ascoltatori. Anche se la giornata volge al termine, abbiate proprio ancora i nostri auguri. Ma gli auguri in particolare li farà uno degli amici di questa trasmissione, Viktor Gajduk, professore all'Università di Mosca, accademico delle scienze di Russia, già accademico delle scienze dell'URSS, che è al telefono con noi proprio la sera di Pasqua, perché la Pasqua ortodossa quest'anno coincide con le altre Pasque della cristianità. E allora, buonasera e buona Pasqua, professor Gajduk. Buonasera e buona Pasqua a tutti, tanto che il calendario ci regala una volta tanto questa grande soddisfazione di avere lo stesso giorno della Santa Pasqua. E cosa succede a Mosca per Pasqua? C'è molta festa, c'è molta gioia? C'è molta festa, c'è molta gioia, c'è anche qualche fenomeno nuovo, mai visto da me, residente da tanti anni a Mosca, che fanno rappresentanti del coro del Bolshoi, di altri teatri, di altri cori, che fanno flash mob, si mettono a cantare in tre, in quattro, per raccogliere poi il canto di tutto il filobus, di tutto il bus, di tutta la metropolitana, della carrozza, e veramente col regalo, con omaggio floreale, si è contenti tutti. Quindi cantano. Il coro del Bolshoi è distribuito per Mosca e fa cantare tutti i mezzi pubblici. È una bellissima iniziativa. Magari qualche politico... Addirittura nell'intervallo dei treni che passano nella metropolitana, che all'occasione ha scoperto la sua vera acustica. Ecco, tra le altre cose, lei, professor Gajduk, ci ha inviato sempre di Pelagie e Daria Moros, Grande era la notte, tratto dall'opera di Tchaikovsky, Cervicci. Pantofoline. Ecco, cosa dobbiamo dire di questa Grande era la notte? Perché è il fenomeno all'incontrario, il fenomeno musicale si intende, perché Tchaikovsky, soggiornando al sud della Russia, ha raccolto questa canzone, l'ha trasformata in aria per il soprano nella sua opera lirica, purtroppo dimenticata. Poi il popolo la riprende da Tchaikovsky e canta un po' a modo suo, ma è sempre Tchaikovsky. È sempre Tchaikovsky. L'aria dell'opera lirica. Certo, e allora questa come è nata, diciamo così, come aria di Pasqua? È l'aria di questi giorni o un'aria che tradizionalmente viene cantata a Pasqua a Mosca? No, perché la canzone racconta la grande notte di Pasqua, l'attesa, poi quando, secondo il rito di qua, finita la liturgia, benedetti i pani, le uova dipinte, si bacia tre volte, anche tra gli sconosciuti. Mi pare un rito molto bello. Ecco, ma cosa dice questa canzone? Per riassumere, se il popolo ama la poesia, ama i poeti, e nessuno ama la poesia più di un russo, un po' nazionalista. Quindi praticamente è una canzone che viene cantata in questi giorni, insomma. Sì, in questi giorni di Pasqua, perché qua c'è il momento del grande risveglio della natura. Ci liberiamo della neve, delle nevicate, e comincia a spuntano i fiori degli alberi da frutta, che è una grande promessa per mangiare bene anche in autunno. Ecco, e quindi diciamo così, questa canzone si inserisce in questo miracolo della natura ed esprime anche una certa gioia. Questa è per questo che la Santa Pasqua è molto sentita dai russi, perché ha due fenomeni della natura e del mistero, si ricongiungono insieme. Esiste ovunque questo sentimento. Ecco, ma professor Gaiduc, quando c'era l'URSS, cosa si succedeva a Pasqua? Si celebravano lo stesso i riti? Tutto funzionava o c'era un certo silenzio? Uguale come adesso, anzi, c'era anche il brivido di avere tentato il non permesso. Invece le processioni, i panettoni, perché il panettone qua si usa come da voi per Natale, anzi, ho visto nei grandi magazzini con la parola russa, è scritto tutto in russo, ecco i veri panettoni italiani per la Russia. Quindi, immagino quello che non avete fatto in tempo di mangiare voi. Ecco, sostanzialmente viene mangiato a Pasqua. Sì, sì, sì, ah, ma qua si mangia a Pasqua e si benedice questo pane. Poi la gioia delle uova dipinte di tutti i colori con disegni vari, molto belli tra l'altro. E che bisogna lottare con queste uova, il tuo e il mio, dobbiamo accozzarli e vinci chi ha distrutto il guscio dell'uovo. Ah, ecco, e quindi è una Pasqua un po' particolare questa, c'è una gioia che corre per Mosca e che si sente nei canti, in queste musiche che lei ci ha inviato, professor Gaiduc. Sì, sì, infatti quest'anno mi ha colpito che si canta anche nei mezzi pubblici. Anche nei metrò. Hai sentito prima, eh? Anche nei metrò, quindi dappertutto. Appunto, basta che passano, quelli si nascondono i coristi, da a quattro angoli cominciano, intonano la canzone ed ecco tutta la metropolitana canta, sembra in un romanzo di Bulgakov. Vabbè, ecco, professor Gaiduc, che cos'è questa musica che mi ha inviato del Meniski con Gergiev, questa ouverture di Pasqua? Sì, questa ouverture, sinfonia nel tempo unico, nasce nel 1888. Rimsky-Korsakov la scrive per ricordare Mussorgsky e Borodin, suoi due grandi amici, che erano morti, e quindi come ricordo di questi due grandi amici ha scritto questo pezzo contemporaneamente alla Sinfonia Shekherezada, o come si chiama in italiano, quella favola di Mille e una notte. Scheherazade. Sì, sì, all'inizio portava il nome la Sinfonia di Crimea, ma lo zar, ricostruendo i rapporti con l'Europa, gli ha chiesto di cambiare il nome. Così è diventata l'Orientale Mille e una notte. Ecco, insomma, non è cambiato niente nelle questioni della Crimea, insomma. Ah, niente, ma poi qua veramente l'ouverture di Tchaikovsky 1812, che si conclude con l'inno allo zar, nel periodo sovietico hanno tolto l'inno allo zar, ci hanno messo di Glinka, gloria dell'opera Ivan Sustanin, che all'origine si chiamava La vita per lo zar, quindi hanno tolto lo zar, hanno messo un altro personaggio chiave peraltro, e quindi adesso non si trova se non inno dello zar alla finale, ma non si trova mai Glinka che ha inserito Shostakovich, e quindi, e quindi siamo sempre così. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Turno dai microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in collegamento con Mosca, col professor Viktor Gaiduc. Stiamo ascoltando le musiche di Pasqua, le musiche che si ascoltano a Mosca, che quest'anno celebra appunto la festa di Pasqua insieme a noi, insieme al mondo cattolico. Professor Gaiduc, c'è una poesia del grande Pasternak che viene letta la notte di Pasqua e lei ce l'ha inviata, ci può dire di che cosa si tratta? Ah, ma si tratta del romanzo Dottor Givago, che in appendice, come se fossero scritte di mano in mano Yuri Givago, le poesie tutte dedicate alla Santa Pasqua. a parte il romanzo, dottor Givago, questa sfilza di poesie è il patrimonio nazionale russo dedicato proprio a questa festività cristiana. Ecco, ma lei ci ha inviato una versione cantata. La versione cantata, scritta dal più grande compositore vivente a Mosca, Eduard Artemiev, per lunghi anni collaboratore da giovane con il nostro grande regista cinematografico Tarkovsky, di cui papà pure era un grande poeta, e quindi siamo nel bel mezzo della poesia religiosa russa e della musica religiosa russa di Eduard Artemiev, che ne ha scritto parecchie. Chiediamo al professor Gajduk, perché poi il tempo stringe, che cosa dice questa poesia di Pasternak. Ecco, vi riassumo, perché tradurre la poesia è una fatica inutile, ma per riassumere ci si può arrivare al sodo. L'uomo negli altri uomini, dice Pasternak, ecco che cos'è l'anima dell'uomo. Ecco che cosa siete voi, ecco di che cosa ha respirato, si è nutrita, si è abbeverata per tutta la vita la vostra coscienza, della vostra anima, della vostra immortalità, della vostra vita negli altri. Negli altri siete vissuti, negli altri resterete. Che differenza fa per voi se poi ciò si chiamerà memoria? Sarete ancora voi. Entrate a far parte del futuro, dice Pasternak. È una poesia affascinante, tra l'altro. Affascinante, sì. No, c'è tutta una serie di poesie veramente vertiginose che è una bella eredità di Pasternak ai russi. Ecco, ma questa poesia che viene cantata, viene musicata, noi abbiamo sentito appunto una versione che era stata preparata per questo, diciamo così, momento cinematografico e viene anche, diciamo così, eseguita magari nei teatri, per le strade, visto che in questo momento... Sì, ci sono mille versioni, da rock, da hard rock, alle elegie, diciamo, nello stile di Chekhov. Ma è questa musica è tratta dal compositore Eduard Artemiev, dalla sua prima sinfonia. È un lento che diventa poesia nel film. Ecco, professor Gajduk, abbiamo un po' festeggiato la Pasqua insieme. Quest'anno abbiamo fatto una Pasqua tutta russa. Sì, sì, abbiamo cantato insieme. Beh, io no, perché sono stonato, professore, quindi... No, non l'ho sentito, a distanza non si sente. No, a distanza non si sente, ma le assicuro che io non ho cantato e non mi conviene cantare. Proprio... Allora bisogna tornare a Mosca, partecipare ai flash mob cantati. Ecco, ma io temo che questi flash mob di Mosca mi possano veramente ammonire se dovessi cantare in coro, professore. Ah, in coro uno stonato mai si sente. Sì, c'è questo trucco. E allora, professor Gajduk, possiamo tranquillamente dire buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti di tutto il cuore. E allora a risentirci la prossima volta, perché il professor Gajduk non ci abbandonerà. Buona Pasqua anche a voi, cari ascoltatori. Come sempre vi do appuntamento domenica prossima alle 21. Un cordiale saluto da Armando Torno e da... Viktor Gajduk, che si trova sempre a Mosca in attesa della chiamata.